Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle riflessioni e alle iniziative del movimento animalista, antispecista e vegan. La nostra trasmissione, con cadenza settimanale, cerca di leggere il passato, ma soprattutto il presente, la cronaca, dal punto di vista degli altri animali, perché desideriamo includerli nella grande famiglia di quei viventi che sono degni di considerazione e di rispetto. Lo facciamo anche per costruire una società umana migliore, non violenta, una società, come ci piace dire, cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 575, nella quale affronteremo il tema del controverso esperimento scientifico su 5 macachi presso l'Università di Torino. Parleremo del complesso rapporto fra le tradizioni religiose e il progresso, soprattutto in tema alimentare. Vi racconteremo del più grande ospedale mobile per animali selvatici. Speriamo di avervi incuriositi. Dobbiamo purtroppo aprire questa puntata con una notizia che speravamo di non dovervi dare. Il Consiglio di Stato ha deciso che possono riprendere all'Università di Parma gli esperimenti dello studio Light Up su 5 macachi vivi che sono attualmente prigionieri da anni in uno stabulario. Svaniscono così le speranze di salvarli, di salvare queste 5 vite incolpevoli che verranno rese cieche e poi uccise a fine esperimento. Questo nonostante le corpose argomentazioni scientifiche presentate contro l'uso di questi poveri animali. L'associazione LAV si è battuta contro questo tipo di ricerca con una lunga campagna di informazione e di denuncia. Molti sono stati gli esperti, scientifici e legali che hanno sostenuto la campagna per fermare la sperimentazione e liberare gli animali. Psicologi, medici, veterinari, primatologi che da scienziati e da studiosi, quindi dall'interno del mondo della scienza, ritengono che il modello animale debba essere superato. Siamo molto amareggiati perché ci sono stati dei personaggi, tra i quali la senatrice Elena Cattaneo, che hanno letteralmente esultato a questa notizia, che hanno esibito la loro gioia. Secondo Cattaneo, chi si oppone alla ricerca con animali fa pura propaganda. Noi riteniamo che, trattandosi di seviziare comunque 5 macachi vivi e sani, sarebbe d'obbligo tenere un profilo basso sulla faccenda, perché la scienza non può essere tale a qualunque costo. Abbiamo chiesto un parere a Susanna Penco, biologa e ricercatrice all'Università di Genova. Penco, oltre a essere in prima linea come ricercatrice, è anche una malata di sclerosi multipla. Pertanto potrebbe schierarsi a favore della vivisezione, pensando di diventare in futuro una beneficiaria di eventuali scoperte. Ma dall'interno del mondo scientifico la dottoressa ritiene, anche per numerose evidenze scientifiche, che la ricerca sugli animali, oltre a essere crudele e anacronistica, sia anche irrilevante dal punto di vista clinico. Penco è anche fondatrice dell'associazione OSA, oltre la sperimentazione animale. Un'associazione che, appunto, all'interno del mondo scientifico riunisce personaggi, scienziati e ricercatori che sostengono la necessità di superare il modello animale per focalizzarsi su una ricerca basata sulla biologia umana, che è molto più affidabile e rilevante rispetto a quella condotta sugli animali. Sentiamo Susanna Penco. Il progetto Light Up, recentemente riabilitato dal Consiglio di Stato, non convince numerosi ricercatori per svariati motivi. Il più semplice da spiegare consiste nel fatto che i cervelli dei macachi e il cervello umano differiscono in maniera significativa, in modo sensibile. Per esempio, i macachi hanno il cervelletto molto sviluppato, cosa che non succede nell'uomo. Perché questo? Perché i macachi in natura saltano da un albero all'altro e quindi hanno la necessità di avere un senso dell'equilibrio molto sviluppato. A noi questo non serve. Per contro, gli umani hanno molto sviluppata la corteccia, proprio per il fatto che siamo dotati di linguaggio, lavoriamo al computer, sappiamo scrivere, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle differenze anatomiche, ma soprattutto delle differenze di plasticità cerebrale che non possono far sì che i primati non umani e quelli umani possano avere una reazione diversa. Tra l'altro esistono già delle strutture specializzate di riabilitazione per questi pazienti che hanno subito un ictus e che quindi necessitano appunto di una riabilitazione a loro dedicata in istituti davanti a computer e con tecniche di neuroimaging che consentono di vedere immagini del loro cervello proprio mentre compiono degli atti e dei gesti al computer. Tra l'altro, l'utilizzo del linguaggio è indispensabile proprio per capire che cosa vede una persona che ha il campo visivo offeso, parzialmente offeso. Non convincono nemmeno i numeri, poiché l'esperimento è stato propagandato come dedicato a 100.000 ciechi all'anno in Italia, ma questi 100.000 ciechi in realtà non sono vittime del blind sight. In realtà chi ha questa visione compromessa è un numero molto molto più ridotto, ma soprattutto per fortuna non sono persone cieche, non sono non vedenti, ma sono persone che guidano la macchina, che possono sciare e che possono condurre un tipo di vita quasi normale. Ciò nonostante è ovvio che hanno bisogno di una riabilitazione che è ben lontana dall'essere quella a cui saranno sottoposti i macachi. Quanto riguarda le alternative, per quanto riguarda proprio l'esperimento del blind sight, che si chiama Light Up, è chiaro che appunto ci sono istituti dedicati e personale medico dedicato proprio a questo tipo di patologia. Ma parlando in generale, è vero che molti ricercatori affermano che non si possa fare a meno dell'animale, però è una visuale miope, tanto per non distanziarci dall'esempio che riguarda la vista. Basta andare sul sito ECVAM, ci sono almeno un centinaio di metodi alternativi e sostitutivi all'animale che sono stati validati, cosa che non è mai accaduta per la sperimentazione sugli animali. Tra l'altro, in Italia si tratta proprio di cominciare a usare e finanziare questi metodi, che sono assolutamente promettenti. Per esempio, se si guarda il programma dell'ultimo Eurotox, cos'è Eurotox? È la conferenza della Società Europea di Tossicologia, quindi una conferenza assolutamente prestigiosa. Ebbene, si vede che sono intervenuti ricercatori da tutto il mondo e nelle sessioni del convegno, 15 sessioni, dico 15, sono state dedicate a tecnologie in vitro indicate dagli stessi ricercatori come le tecnologie del futuro, e solo 7 sessioni erano dedicate a lavori condotti su animali, quindi viaggiamo a più del doppio. Quindi affermare che la vera ricerca è solo quella su animali non solo è falso, ma è anche offensivo per tutti quei ricercatori che si dedicano a modelli di ricerca avanzati, sempre più predittivi per l'uomo. In Italia ci sono troppi incomprensibili pregiudizi verso questo tipo di ricerca. Addirittura alcuni miei allievi si sono dovuti trasferire all'estero per poter lavorare su questi metodi alternativi promettenti senza l'utilizzo di animali. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, gonna get you all on the Bingo Moon. Dicembre la Corte di Giustizia europea ha posto fine a una lunga querela tra il governo della regione fiamminga del Belgio e la comunità ebraica, confermando il divieto di macellare animali senza prima stordirli, una norma in vigore nella regione fiamminga del Belgio, quindi una regione che si fa pioniera in Europa, ma contestata a suon di carte bollate dalla comunità tradizionalista e ortodossa ebraica del posto. La misura di fatto proibisce quella specifica pratica religiosa che richiede che gli animali siano coscienti nel momento in cui viene tagliata loro la gola, una pratica rispettata dalle comunità religiose tradizionaliste, ebraiche e musulmane. Nel primo caso la pratica viene chiamata kosher, nel secondo caso il termine è halal. La reazione degli osservanti, tradizionalisti e ortodossi, non si è fatta attendere. Gli ebrei tradizionalisti hanno vissuto la sentenza come una vera e propria negazione di democrazia, contro la libertà di culto e i diritti delle minoranze. Di diverso avviso i giudici europei, i quali hanno affermato che la norma permette un giusto equilibrio fra l'importanza del benessere degli animali e la libertà dei fedeli ebrei e musulmani di vivere la propria religione. La notizia è tornata di attualità perché il 31 gennaio scorso il premier israeliano conservatore Benjamin Netanyahu si è appellato ai vari paesi europei, fra cui l'Italia, indirizzando loro una lettera nella quale chiede che si continui a mettere da parte il benessere degli animali a favore della macellazione rituale. Lo riferisce il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui il premier sarebbe preoccupato per il divieto autorizzato in Belgio. La paura è che questo divieto si espanda in altri paesi europei. Netanyahu ribadisce che la decisione della Corte europea minaccia la libertà di culto degli ebrei in Europa e afferma che i dirigenti dell'ebraismo sono sconvolti e temono per il futuro della vita ebraica nei paesi UE. Secondo Netanyahu è necessario garantire agli ebrei di poter svolgere ovunque una vita ebraica piena. Di conseguenza, egli chiede ai dirigenti di quei paesi di far sì che la macellazione kosher resti legale anche in futuro. Abbiamo recentemente celebrato il Giorno della Memoria. Sappiamo quanto la crescita dell'estremismo di destra in Europa stia favorendo un ritorno dell'antisemitismo. Anch'esso un'antichissima tradizione, ovviamente riprovevole, che condanniamo. Chiediamo al presidente Netanyahu di indirizzare però meglio le sue preoccupazioni e invitiamo tutte le persone che per le loro tradizioni religiose, cristiane, ebraiche o musulmane sono disposte a sacrificare la sofferenza e la vita di tanti animali, di valutare il fatto che anche le tradizioni possono evolversi con il passare dei secoli, aggiornandosi e armonizzandosi con la sensibilità e l'etica collettiva moderna. Picchiare i figli, per esempio, è stata un'antichissima tradizione, ma oggi ci sono i diritti dei bambini. Così anche schiavizzare le donne, anch'essa una delle più antiche tradizioni, oggi superata, per fortuna, in nome di diritti universali dei quali beneficiano anche gli uomini. Guardiamo avanti, quindi, cercando di non lasciare indietro nessuno. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, dedica agli amici ebrei una ricetta kosher, ma 100% cruelty free. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Parlando di cucina kosher, oggi vi racconto la ricetta di un piatto che solitamente si prepara durante la Pasqua ebraica. Una ricetta che ricorda un po' i canederli, in una versione mignon, anche questi consumati in brodo, quindi perfetti anche per questi giorni invernali. Come di consueto ve li propongo in chiave vegetale. Gli ingredienti per 4 persone per il matzah balls sono 150 g di pane azimo, 1 litro e mezzo di brodo vegetale, 50 ml di olio extravergine di oliva, un ciuffetto di aneto, 2 carote, 30 ml di acqua gassata, 50 g di farina di ceci, sale e pepe. Con un mixer riducete il pane azimo in polvere. In una padella fate scaldare l'olio extravergine, unite la farina di pane azimo e fate andare per qualche minuto mescolando. quindi unite 70 ml del brodo vegetale e poco sale e pepe. Lasciate assorbire e togliete dal fuoco. Fate intiepidire e successivamente lasciate riposare per 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo stemperate la farina di ceci nei 30 ml di acqua gassata e lasciate riposare fino a quando potrete riprendere l'impasto dal frigorifero. A questo punto unite la pastella di ceci all'impasto e mescolate bene il tutto. Con le mani inumidite formate delle palline grandi come noci che farete cuocere nel rimanente brodo vegetale a fuoco lento per 30 minuti. Negli ultimi 5 minuti di cottura aggiungete le carote precedentemente tagliate a julienne. Servite ben caldo guarnendo con ciuffetti di aneto e fili di carota. Ricordiamo che è uscito l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegana. زف میت ماله دش یاروک مخسر و همه را خبریف نه و هنو دایلی دایلی بخاخ و هنو دایلی و هنو دای بخاخ. Torniamo a parlare di selvatici e facciamolo da più punti di vista. Come prima notizia in tema di selvatici vi segnaliamo la campagna Unfake News di Legambiente e Nuova Ecologia, che abbiamo trovato nel portale greenreport.it con un bell'articolo che volentieri riprendiamo. È dell'8 gennaio la notizia dell'inseguimento di un branco di lupi da parte di un SUV sulla strada del Passo delle Tre Croci a Belluno, che ha riempito le pagine dei giornali. Mentre a luglio una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila ha sancito l'obbligatorietà di un cospicuo risarcimento al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da parte di un uomo che aveva ucciso un orso marsicano nel 2014. Nessuno, come lupi e orsi, imprigiona il nostro immaginario ancestrale nel terrore. La presenza di questi grandi carnivori ha invece impatti positivi sulle altre specie e sugli habitat. Le storie di lupi affamati o di orsi che aggrediscono senza motivo le persone sono leggende. Ma dalle Alpi agli Appennini, lupi e orsi dividono l'opinione pubblica influenzata dall'eco mediatica di alcuni casi di cattiva coesistenza con l'uomo. È da questa consapevolezza che parte la campagna Unfake News di Legambiente e della Nuova Ecologia sulla presenza di questi grandi carnivori in Italia. Perché la presenza di lupi e orsi non è incompatibile con le attività antropiche ed è possibile trovare un giusto equilibrio tra l'uomo e questi animali. L'uomo è una preda per orsi e lupi? Lupi e orsi sono pericolosi per l'uomo? È vero che è impossibile una convivenza umana tra lupi e orsi? Lupi e orsi si stanno riproducendo in maniera incontrollata? È stata riaperta la caccia a queste due specie? La risposta a tutte queste domande è no. Quello che invece è vero è che ogni anno nel nostro paese sono ritrovati tra i 200 e i 300 lupi morti su una popolazione stimata di 2000 individui in attesa dei risultati del nuovo monitoraggio in corso, per cause diverse. Bracconaggio, avvelenamento, incidenti stradali o anche gesti clamorosi e violenti che devono essere contrastati con modelli di coesistenza che sono non solo possibili ma soprattutto necessari. Anche rispetto alla conservazione dell'orso persiste una forte emotività nell'opinione pubblica che attraverso comportamenti non sempre razionali induce spesso i decisori politici a mettere in atto interventi sbagliati e con particolare riguardo alla popolazione alpina anche illegittimi dal punto di vista giuridico. Queste sono le parole che abbiamo voluto riportarvi di Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente, e ci sembra che la campagna Unfake News sia quanto mai necessaria per riportare un po' di logica, un po' di razionalità nella nostra condivisione del pianeta con le altre specie viventi. Concludere, vogliamo salutare, quindi lasciandovi una buona notizia per tutti gli animali che hanno vissuto la tragedia degli incendi la scorsa estate in Australia. È nato un ospedale mobile solo per loro. Si tratta di un tir attrezzato che si prenderà cura dell'immenso patrimonio faunistico del paese australe. Gestita dal Byron Bay Wildlife Hospital, la struttura, che è il più grande ospedale mobile di cui siamo a conoscenza, potrà essere portata in qualsiasi unità di crisi per curare, riabilitare e prendersi cura degli animali nativi in difficoltà, che, lo ricordiamo, sono un patrimonio unico al mondo, con moltissime specie che vivono esclusivamente nel grande paese dell'Oceania. L'ospedale mobile è completamente autosufficiente per energia solare, per comunicazioni satellitari, per approvvigionamento idrico e stoccaggio dei rifiuti, ed è anche dotato di attrezzature veterinarie molto all'avanguardia. Se pensiamo a cosa è accaduto un anno fa, quando una stagione di incendi provocò la morte di miliardi di animali, 3 miliardi secondo le ultime stime, questa notizia accende una speranza che un altro disastro, qualora malauguratamente dovesse ripetersi, potrebbe ora essere in parte arginato, sicuramente meglio gestito. Yeah, yeah. Have you heard the news today? People right across the world, I pledge and they well play the game. Victims of a modern world, circumstances brought us here. Armageddon's come too near, too near now. Farsight is the only key to save our children's destiny. The consequences are so grave, so, so grave now. Questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione di ieri e di oggi, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Badagnucci, Gabriele Palloni